Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi per quest'oggi 28 giugno, Italia in controluce. Con questa puntata termina diciamo la stagione, riprenderemo a settembre con questo approfondimento del giornale di Radio 24, e abbiamo voluto concludere con una storia che ci porta nuovamente nel passato, anche se è una storia di oggi. È successo che un alto prelato di Salerno, Monsignor Nunzio Scarano, un carabiniere, Giovanni Maria Zito, ex funzionario dei servizi segreti, un broker finanziario, Giovanni Carenzio, sono stati arrestati tutti e tre nell'ambito di un filone di indagine sullo IOR. Le accuse sono molto gravi e sono corruzione, truffa e calunnia. È un'indagine di un filone autonomo più ampio dell'inchiesta in corso alla Procura della Repubblica di Roma. Questa è una storia che ci riporta veramente indietro nel passato, e poi vedremo e capiremo anche perché alle vicende del cosiddetto banchiere di Dio di Roberto Calvi. Che cosa pensate di questa indagine? Qual è la vostra reazione una volta sentito che persone che dovrebbero essere al di sopra di ogni sospetto, quindi un prelato, un monsignore, un uomo dei servizi segreti che dovrebbe garantire la nostra sicurezza, broker finanziari che dovrebbero teoricamente consigliarci bene negli investimenti, sono coinvolti in una storia di 20 milioni cash ritenuti frutto di evasione fiscale, gente che girava a bordo di jet privati, e questo uomo dei servizi segreti avrebbe ricevuto 400.000 euro per questo servizio. Insomma, storie che vengono dal passato. Allora io mi collego con Monica Ceravolo. Monica, tu hai seguito naturalmente, ma questa storia dello IOR è una storia, diciamo, un'inchiesta naturalmente nuova che è in corso, di cui si sa poco nel suo complesso, perché però ogni tanto, diciamo, vengono fuori, emergono fatti come questo, come quello di oggi, abbastanza eclatanti. Sì, in effetti la gestione di questa Banca Vaticana fino ad ora consente a dei prelati come questo Monsignor Nunzio Scarano di avere dei conti personali e nei quali possono mettere le mani anche altre persone, conti che non sono controllati. Tanto che, come penso diremo nel corso di questa trasmissione, Monsignor Scarano è indagato anche per un'altra vicenda a Salerno, in cui una vicenda che ha a che fare con il riciclaggio di 560 milioni di euro. Una nota di colore: Monsignor Scarano, che per fino a oggi che è stato sospeso gestiva l'amministrazione dei beni della Santa Sede, quindi i fondi della Curia, prima di prendere i voti era broker della Deutsche Bank, quindi diciamo aveva delle competenze specifiche per la gestione di questo fondo. Ebbene, se volete vi racconto la storia, se è il momento. Che dici, Daniele? Sì, ci sono anche tantissimi sms che sono già arrivati, perché chi mi dice: vabbè, ma qual è la sorpresa? Non c'è niente da meravigliarsi, è la storia d'Italia, dice Patrizio da Pistoia. Meno male che Papa Francesco sta contribuendo a fare pulizia, dice Francesco. Speriamo che una volta per tutte il Papa faccia davvero luce sullo IOR prima che gli tolgano la possibilità di farlo, dice Fabio. Un uomo di Dio in prigione, uno scandalo, un attacco alla sanità, naturalmente scherzo, dice. C'è chi, per esempio, ricorda che Papa Luciani aveva detto ai tempi che voleva mettere ordine allo IOR, e poi alla fine è morto. Secondo Claudio da Verona hanno scoperto l'acqua calda i magistrati. Insomma, ci sono tante storie. Vogliamo sentire insieme, Monica, l'intervista che ha fatto Maria Luisa Pezzali ad un magistrato, Mario Almerighi, ex pretore d'assalto di molte vicende oscure della storia d'Italia, tra cui il caso Calvi, che proprio coinvolgeva anche lo IOR. Sentiamo. La trasparenza era una dote che mancava nel modo più assoluto nella gestione dello IOR. Io mi riferisco ai rapporti tra Calvi, Marcinkus e mafia. Diciamo, il Banco Ambrosiano all'epoca, siamo nelle fine degli anni 70-80, riciclava denaro proveniente dagli introiti della mafia. Uno dei moventi dell'uccisione di Calvi, riconosciuto anche dalle sentenze dalla Corte d'Assise d'Appello, che questi soldi che Calvi riceveva dalla mafia per riciclarli, investirli, eccetera, molti di questi soldi Calvi li ha distratti versandoli a Marcinkus, allo IOR. E soldi che sono serviti poi al Vaticano sia per quanto riguarda quello che è successo in Polonia, ci sono stati dei finanziamenti a Solidarnosc, sia in Sud America, nella lotta che c'era in Sud America contro i comunisti. Questo che le sto dicendo risulta da una lettera che Calvi scrisse al Papa 10 giorni prima di essere ucciso. Lei, come altri suoi colleghi negli anni, nelle varie inchieste, ha chiesto collaborazione allo IOR, ha richiesto informazioni. Quanto era chiuso questo ambiente? Totalmente, per quanto mi riguarda totalmente. Questa è una cosa che mi sorprese alquanto. L'Italia ha dei trattati internazionali di collaborazione giudiziaria con tutti i paesi del mondo, ma non col Vaticano, per cui rogatorie internazionali col Vaticano non erano ammissibili. Lei crede che questa operazione trasparenza, operazione di pulizia voluta da Papa Francesco possa comunque essere veloce, possa avere tempi spediti? Mi auguro che non siano i tempi della giustizia italiana. Spero che quest'opera di moralizzazione dello IOR passi attraverso non soltanto la giustizia penale italiana, ma anche attraverso l'inchiesta amministrativa che ha disposto il Papa. Penso che questi tempi siano sicuramente più veloci di quelli che saranno i tempi di accertamento della giustizia italiana. Questa è l'intervista di Maria Luisa Pezzali ad un esperto, diciamo ad un magistrato che aveva lavorato sulle vicende vecchie dello IOR, Mario Almerighi. Allora, Monica Cerabo, l'hai ascoltato questa intervista di Almerighi, ma c'è questo Monsignor Scarano che è coinvolto anche in un'inchiesta di Salerno. Sì, allora, in realtà, allora, la vicenda di oggi, quella strettamente legata ai fatti di cronaca di oggi, vede al centro 20 milioni di euro custoditi in Svizzera, 20 milioni di euro che dovevano rientrare in Italia. Ebbene, a organizzare questo rientro in Italia di capitali presumibilmente illeciti sono Monsignor Scarano assieme con Carenzio. Carenzio è il broker al quale erano stati affidati questi soldi. Loro tirano in ballo l'uomo dei servizi segreti, Giovanni Maria Zito. Questo perché? Perché lui ha delle competenze specifiche e può far eludere tutti i controlli doganali a questi soldi. Zito noleggia un aereo, privato, lo posiziona a Locarno in attesa dei soldi. I tre però litigano e sembra che il broker faccia un poco di ostruzionismo perché ha l'interesse a continuare a gestire questi fondi, fondi che tra parentesi potrebbero essere degli armatori d'Amico di Napoli, sono i tre fratelli Cesare, Paolo e Maurizio, al momento dice la procura non indagati, ma di loro si sente parlare molto spesso nelle intercettazioni della procura. Ebbene, l'operazione salta, l'aereo rimane a Locarno, però Zito quando ritorna in Italia va da Monsignor Scarano e pretende di essere pagato per il lavoro che lui ha fatto e a quel punto Monsignor Scarano gli dà un assegno da 400.000 euro che lo 007 incassa regolarmente. Un'altra parentesi, il reato di truffa è quello che sarebbe contestato al carabiniere perché tutta questa operazione lui l'ha fatta mentre in realtà al lavoro risultava in malattia. Ah, questo è veramente... Sì, è una... Sono delle scatole cinesi. Cioè, scatole cinesi, ma anche, diciamo, comportamenti. Grazie Monica Ceravolo, questa è Italia in controluce. Vi ricordo moltissimi sms che sono arrivati da chi si chiedeva se Papa Wojtyła sapeva qualcosa di questa vicenda, chi ricorda la figura di Giorgio Ambrosoli e dice anche qui la storia si ripete. Ambrosoli diceva che bisogna sedersi al tavolo delle trattative anche con chi ha le mani sporche di sangue, dice Marina da Milano, una frase aggiunge spaventosamente attuale. Questo è quanto, e abbiamo raccontato una storia che ha a che fare con una banca importante, fondamentale come lo IOR, di uomini di servizi segreti che girano intorno e anche broker finanziari. Staremo a vedere, perché temo che di questa inchiesta ne sentiremo parlare. Allora ci risentiamo a settembre, direi, perché Italia Controluce va in ferie per 2 mesi.